22. Ingannare gli dèi. Gli nasceranno dei figli, saranno messi a dormire su giacigli, indosseranno mantelli, avranno scettri con cui giocare, la loro voce sarà forte, risplenderanno nelle loro ginocchiere rosse i futuri principi del paese. Gli nasceranno delle figlie, verranno messe a dormire per terra, vestiranno di stracci, avranno piastrelle con cui giocare. Non potranno fare né il bene né il male, solo agli spiriti e al cibo dovranno pensare e a non causare dispiacere ai genitori. Il libro delle odi. In certi giorni in cui il vento soffia da ovest, la sabbia si libra nel cielo sopra la città proibita, tingendo d'oro l'aria. Così era quando la nuora ritornò a Pechino. Arrivò per trovare la suocera sola con una serva scema in una casa devastata. Il figlio adottivo era perito in uno dei molti incendi divampati dopo che l'imperatore aveva abdicato. La sua fragile vedova era tornata in campagna, ma Gioia di Loto si era rifiutata di seguirla. Un tempo non era forse nota come la bellezza della capitale settentrionale? Avrebbe preferito morire piuttosto che inchinarsi davanti alla moglie di suo nipote. Luna di primavera mandò subito a chiamare Ciccia e cominciò a cercare una nuova casa, più piccola di quella di una volta, in un quartiere ancor meno desiderabile. Gioia di Loto si limitava per lo più a guardare lontano, come se osservasse l'incendio che da lungo tempo si era estinto, senza chiedere di nessuno in particolare. Che tipo di dinastia è una repubblica? Che tipo di mandato del cielo è la volontà del popolo? Qual è il tipo di cinese che non ha la coda? Quando il primo mese passò, Luna di primavera quasi non vi fece caso. Quando il secondo trascorse, senza rassicurarla, cominciò a ricordare degli episodi. Il funzionario che aveva perso la sua carica quando sua moglie era rimasta incinta durante i 9 mesi di lutto nazionale. Il padrone Co, che aveva decapitato sua moglie insieme all'amante ed era stato graziato. La lasciva vedova Ling sepolta viva per aver insozzato il nome del clan. Lei aveva amato talento coraggioso. E finché la sua storia restava segreta, non ne provava vergogna. Dopotutto, le leggi erano limiti arbitrari, imposti dagli uomini ad altri uomini per assicurare l'armonia, non misure divine. Ma col passare del terzo mese seppe che la sua storia presto si sarebbe risaputa e i clan dei Chang e dei Wu ne sarebbero stati disonorati. La paura si impossessò di lei. Né le pozioni di zenzero verde, bucce d'arancia e ginseng, né i bagni bollenti e il digiuno provocarono l'aborto. Fu Ciccia ad affrontare l'argomento. Padrona, lo so da molte settimane, e da molte settimane rifletto. In altri tempi il bambino sarebbe entrato nei cortili dalla porta posteriore come figlio mio. Ma io sono troppo vecchia, e così devi permettermi di andare da Marionetta e fare i preparativi per il parto. Diremo a tua suocera che sei stata assunta come istitutrice da una famiglia straniera. Lei non sta bene, non obietterà nulla. La servirò io fino al tuo ritorno. Non disse altro. Ciccia partì il mattino successivo. Una settimana dopo, la sua padrona salì a bordo della piccola barca che doveva portarla a Ceneri Sapienti. Quando raggiunse il villaggio, indossava una gonna verde da concubina. Non c'erano portantine disponibili, ma la serva della barca procurò un carro trainato da un mulo per l'unica passeggera del suo padrone. Mentre avanzava lungo i gruppi di case di mattoni, gli adulti uscivano in esclamazioni di stupore e i bambini ridacchiavano e la segnavano a dito, correndo dietro il carro, mettendo in mostra le palme delle mani e le suole dei sandali dipinte a fiori che si sarebbero subito dissolti se avessero osato giocare nel canale proibito. Alcuni mendicanti chiesero l'elemosina, fiutando un odore straniero, persino i cani del villaggio si erano radunati. Lei chinò il capo, fingendo di ignorarli. Con un sobbalzo, il carretto si fermò. Subito i monelli la circondarono, toccandole la gonna e il bagaglio. A disagio si guardò intorno. Il guidatore era sceso e dietro il carro buttava con una pala gli escrementi del mulo in una cesta appesa al retro del veicolo, raccogliendoli subito dopo per concimare i propri campi prima che qualcun altro se ne impadronisse. La folla intorno al carretto si fece più numerosa quando le donne del villaggio si unirono ai loro figli. Luna di primavera Scrutava una faccia dopo l'altra, sperando di scorgerne una nota. Improvvisamente una voce gridò: «Aia! Aia! Siete voi!» Le donne si scostarono e Marionetta avanzò lentamente in mezzo a loro. «Chi è?» urlarono le donne. «Chi è quella bella signora?» Marionetta non rispose, ma aiutò Luna di Primavera a scendere dal carro. «La nostra casa è a pochi passi di distanza», mormorò. Luna di Primavera pagò il guidatore, chiedendogli di aiutarla a trasportare il piccolo baule. Lui si inchinò, contò le monete e poi uscì in un ampio sorriso. «Certo, padrona!» «Sorella!» urlarono le donne. «Tu sei troppo generosa! Tu lo vizi!» Dopo aver cacciato via i bambini, i mendicanti e i cani, seguirono imperterrite Luna di Primavera e Marionetta nella casa di due stanze, toccando la tunica, i capelli e la pelle della straniera e studiando ogni suo particolare. «Morbida, come il sederino di mio nipote!» mormorò una. «Tocca se non ci credi!» «Porti i doni dalla città?» gridò un'altra. «Resterai a lungo?» «Sorella Hua, devo andare a chiamare il padrone di casa? Quanto è costato quel pettine che ha fra i capelli? Presentaci, sorella!» «Non ora, vi prego, non ora!» supplicava silenziosamente Luna di Primavera. Marionetta la guidò verso il kang di pietra, ma le altre lo avevano già occupato e infine, con un braccio protettivo intorno alle spalle dell'ospite, disse: «Ahimè, la mia casa è troppo piccola per ricevere tutte le mie care vicine e non ho preparato rinfreschi per questa piacevole sorpresa. Zie, sorelle, nipoti di ceneri sapienti, concedetemi di intrattenervi come si conviene. Tornate domani quando sarò pronta». Congedate da queste parole così gentili, le donne si trascinarono fuori a una riluttanti. Quando se ne furono andate, Luna di Primavera, seduta sulla trapunta accanto a Marionetta, parlò per la prima volta. «Sorella!» «Sì, padrona!» Luna di Primavera chinò il capo. «Tu sei mia sorella!» mormorò. «E poi Ciccia ti ha detto tutto?» «Tutto!» sussurrò in risposta Marionetta. «Non preoccuparti, i tuoi segreti saranno al sicuro qui a Ceneri Sapienti. Non l'ho nemmeno detto a mio marito. Lui e tutti gli altri penseranno che tu sia una lontana parente, la concubina di un ricco che è stata cacciata via da una moglie gelosa». Luna di Primavera si nascose il volto fra le mani, arrossendo. «Non preoccuparti», ripeté Marionetta. «Tu sei la benvenuta. Mio marito è un brav'uomo». Fratello Hua era davvero un brav'uomo. Aveva cominciato come bracciante nella fattoria che ora era sua. Era andato a spigolare lontano quando i pugni di giustizia e di concordia avevano massacrato la famiglia Hua. Tornato, aveva continuato a lavorare come se niente fosse cambiato, arando i 5 mu appena fuori della porta settentrionale di Ceneri Sapienti che erano appartenuti ai padroni. Nessuno l'aveva mai visto bere o giocare d'azzardo alla taverna locale. Non portava la coda sciolta sulla schiena, ma sempre attorcigliata intorno alla testa per avere più libertà di movimento. Non si concedeva vacanze. La gente aveva dimenticato il suo nome e lo chiamava Instancabile. Il tetto della casa era stato subito ricostruito ed erano ritornati di nuovo polli e maiali nel cortile, grano e cipolle alle travi. Le tombe erano state curate. L'Instancabile aveva spostato la sua stuoia per dormire sul kang riscaldato nella stanza principale, ma non si era accampato nessun altro privilegio. Quando Marionetta era tornata al villaggio, gliene era stata grata. Lui immediatamente era uscito dalla casa e aveva chiesto a soddisfazione al 100% di provvedere alle trattative per il matrimonio. Dopo aveva assunto il nome della famiglia per perpetuare il lignaggio degli Hua. Doveva essere soddisfatto perché da allora in poi aveva lavorato ancor di più. Benché sorella Hua non accennasse mai a quel che i vicini non scordavano, che la fattoria non gli era sempre appartenuta. Anche lui aveva dimenticato e così, quando Marionetta gli aveva annunciato che Luna di Primavera sarebbe venuta a stare con loro per un po', non si era lamentato. Per lui la terra era sempre della moglie finché non fosse arrivato un figlio. Ma la prima notte, nell'intimità del loro kang, l'instancabile le disse: «Questa non è la casa di un ricco. Tu non puoi fare la tua e la sua parte. Lei deve fare qualcos'altro oltre a lasciare i suoi depositi nel vaso da notte. Deve lavorare!» Luna di Primavera intercettò l'osservazione e si ripromise di impegnarsi, ma era inetta come una bambina piccola. Come tutti gli uomini e tutte le donne della sua classe sociale, non aveva mai compiuto nessuno sforzo fisico, se non prendere in mano una spazzola e di tanto in tanto un ago. Una vita di dolce riposo era il loro ideale. Non sapeva nemmeno esattamente come fasciarsi i piedi, ancor meno come accendere un fuoco, prendere le uova da sotto le galline oppure cacciare i maiali da casa. Si offrì di cucinare i pasti, ma il suo pane cotto al vapore era crudo o impregnato d'acqua e la sua verdura flaccida e in sapore, e come male peggiore sprecava la roba. Dopo una settimana l'instancabile dichiarò che non poteva lavorare tutto il giorno e mangiare porcherie, e così Marionetta corse a cucinare. Oramai era la quindicina dei germogli, quando le fragole maturano e le donne vanno nei campi a raccogliere. Nonostante i suoi gigli dorati, l'una di primavera insistette per andare con loro. Le altre si divertivano alle sue spalle, ma non la mandarono via. E ogni sera, nonostante i piedi scoriati, le mani graffiate, la schiena dolorante, lei presentava fiera il suo mucchietto di fragole, dandole all'instancabile perché le vendesse al mercato. Anche quando il suo ventre cominciò a gonfiarsi, si unì alle donne per fare tutto quel che poteva. E quelle pian piano si affezionarono alla concubina fuggitiva, che non si dava mai arie, anche se proveniva da una casa nobile. Quando la soprannominarono Maldestra, lei non se la prese e rise con loro. Era un peccato, dicevano alcune, che le sue guance si fossero scurite, che i suoi piedi fossero meno aggraziati e le sue mani fossero diventate callose. Tutti amavano le storie che lei raccontava dell'alchimista, della crudeltà vendicata, del saggio magistrato, del generale Nano. A loro volta le raccontarono la storia di Ceneri Sapienti e come aveva ricevuto quel nome. Oltre 2000 anni prima, all'epoca dell'imperatore tiranno Qin Shi Huang Ti, che per primo unificò la Cina, costruì la Grande Muraglia, ripudiò Confucio e ne fece bruciare gli scritti, viveva nel villaggio un coraggioso e fedele letterato. Quando l'imperatore ordinò che le parole del maestro venissero bruciate, lo studioso tentò di salvare la sua biblioteca di classici rinchiudendo i libri all'interno delle pareti. Ahimè, lo stratagemma fu scoperto, il letterato fu sepolto vivo e ricoperto di terra, senza alcun tumulo che segnasse quel luogo. Il villaggio fu bruciato, ma in meno di 20 anni la dinastia Qin cadde e gli imperatori Han riportarono in auge gli insegnamenti del saggio. Il villaggio fu ricostruito dalle ceneri e da allora in poi venne chiamato Ceneri Sapienti. Dopo aver sentito questa leggenda, ogni qualvolta l'una di primavera ne raccontava una, cominciava dicendo: «Naturalmente la storia che sto per narrarvi non può paragonarsi a quella del vostro illustre villaggio». «Non importa, non importa!» gridavano le altre. «Sorella Hua dice che tu conosci una storia per ciascuno dei 6.300 gradini che conducono fino al cancello del cielo». Persino l'instancabile si abituò alla presenza di Luna di Primavera. Dopo che la sua gravidanza fu diventata evidente, dichiarò che le uova non gli erano mai piaciute granché e insistette che lei mangiasse la sua parte. Non aveva forse detto la vecchia levatrice che una donna gravida doveva mangiare 36 uova? Quando il figlio fu maturo e Luna di Primavera grossa e goffa, quasi incapace di camminare o di piegarsi, l'instancabile le assegnò un particolare incarico. Finché il grano non sarà tagliato, legato e portato al sicuro fra le mura del villaggio, tu dovrai vegliare notte e giorno per proteggerlo dai ladri. Voglio che tu stia seduta in uno dei nostri campi». «Oh, certamente, è il meno che possa fare». «Bene, portati una stuoia di paglia». Luna di Primavera si procurò del cibo e una stuoia e si accingeva a seguire l'instancabile nei campi quando le venne in mente di chiedere: «Ma se viene un ladro cosa devo fare? Certo non posso acchiapparlo». «Urla! Vattene, vattene!» «Tutto qui?» «Sì, non c'è nessun motivo di punire un mendicante affamato. Urla, così se ne andrà nel campo di qualcun altro». Era il mattino del terzo giorno della quindicina della Neve Piccola, quando Luna di Primavera ebbe le prime doglie e si mise a letto. Questa volta, a differenza della prima, il parto la mise a dura prova. Il bambino ha vergogna di nascere, si ripeteva man mano che le ore passavano. Non ha diritto né desiderio di nascere. Sentì l'urlo di un porco che veniva massacrato. No, era lei. Aveva perso la nozione del tempo. Non sapeva più da quanto tempo durasse il travaglio. Vergognandosi che Marionetta e la levatrice vedessero la bestia che era diventata, si sforzava di tenersi sveglia, di non chiamare il suo nome. Poi non resistette più e cadde nel buio. Affogava. Dov'era? Che cos'era quel rumore? Il grattare di cani o di una zappa? Lentamente, con pena estrema, volse la testa verso il suono. La levatrice stava scavando il buco per la placenta nel pavimento di terra accanto al Kang. Allora è un maschio, pensò. Se fosse stata una bambina, avrebbero sepolto la placenta fuori della casa, poiché un giorno sarebbe appartenuta al clan di suo marito. Marionetta si chinò su di lei, scuotendo la testa per smentire le parole che urlò a beneficio degli dei gelosi. È una bambina, una inutile bambina. Poi sussurrò all'orecchio della madre. Un meraviglioso maschio! E le mise accanto il fagotto sulla trapunta. Grazie, sorella Hua. Imbarazzata, Marionetta sorrise e se ne andò rapidamente, accompagnando la levatrice al cancello. Luna di primavera la seguì con gli occhi, non volendo guardare la creatura che giaceva al suo fianco. Le lacrime le sgorgarono. Cercò di soffocarle. Il piccolo piagnucolava. A malincuore si volse verso di lui. Non voleva conoscerlo. Non aveva nessun diritto su di lui. La morbida membrana pulsante sulla sommità del capo era vulnerabile come durante una tempesta, una finestra protetta da uno schermo di carta. Per la seconda volta, ormai, la sedia davanti alla sua porta era rimasta vuota per tutto il suo travaglio, vuota anche quando la porta era stata finalmente aperta ed era stato fatto l'annuncio. E quando i preparativi erano stati ultimati, nessuno era entrato per mettere una forcina d'oro in segno di gratitudine sul suo cuscino, prova della stima del marito e del proprio successo. Nessuno aveva preso in braccio le sue creature, né la bambina avvolta in seta rossa, nata 12 anni prima, né questo maschietto avvolto in cotone imbottito per inginocchiarsi davanti alle nonne, per sfilare solennemente attraverso ciascun cortile della dimora e giungere infine sotto la lampada della vita eterna nella sala degli antenati. Nessuno aveva acceso l'incenso, guidando la minuscola mano con una mano di uomo, annunciando la lieta notizia a tutti gli antenati prima di restituire il piccolo alla madre per i 3 giorni del silenzio. Sfiorò la guancia del bambino e la peluria nera sulla testolina. Improvvisamente fu assalita da un timore così grande che aprì la copertina imbottita e svestì il neonato per vedere se avesse qualche difetto. Lui si svegliò, scalciando furiosamente, piangendo come per farsi riconoscere. Questo nostro figlio è bellissimo, pensò Luna di Primavera. È forte come 10 tigri. Il mattino del quarto giorno, Marionetta stava accanto al letto della nuova madre, tirandosi nervosamente le maniche della sua casacca blu. Luna di primavera giaceva col piccolo accanto. Che c'è, sorella Hua? Ah, oh, se fosse possibile, il mio inutile marito sarebbe ansioso. Luna di primavera annuì. Sì, fallo pure entrare. Marionetta corse alla porta e lo chiamò. Lui venne subito, fermandosi sulla soglia. Si era lavato. È troppo presto, sorella maggiore, ritornerò domani. No, no, ti prego, entra. Luna di primavera scostò la copertina rossa del piccolo. Con 2 grandi passi egli fu accanto al Kang. Il neonato dormiva placido, con minuscole bollicine sulle labbra. Lui si protese verso il faccino, poi si ritrasse bruscamente. La sua mano era ruvida come la corteccia di un pino. Ah, sospirò, che magnifico maschietto, che magnifico maschietto. Indietreggiò e si inchinò. Come possiamo ringraziarti? Non avevo mai sognato che una cosa simile capitasse a noi. Luna di primavera annuì, soffocando le lacrime, tenendo stretto il piccolo che lui avrebbe chiamato figlio. 23. Lettere. La bruma è fitta, il mare è vasto. Le notizie e le lettere non possono raggiungerla. Solo nel cielo azzurro la luna, oltre le nuvole, è disposta a illuminare i 2 infelici così distanti. Per Per tutto il giorno i ricordi mi perseguitano e mi feriscono il cuore. Le mie tristi sopracciglia sono come un nodo che è difficile sciogliere. Una notte dopo l'altra, tengo per lei la metà della mia coperta, aspettando che il suo spirito torni a me in sogno. Li Po, dinastia Tang. Primo giorno della prima luna, anno del bue, 1913. Cara nipote, la vita qui è tranquilla. Soltanto le cinque vedove, mia moglie, i miei figli ed io, restiamo a Xuchao. Quando sono tornato, molti dei cortili erano già stati chiusi e venduti. La matriarca aveva voluto a tutti i costi un lutto dispendioso per i suoi due figli, in modo che nessuno mettesse in dubbio la nostra morte a causa del tifone. Poi mia moglie ha provveduto affinché la scomparsa di mia madre fosse celebrata con adeguata pompa. Quando è venuta la rivoluzione, i parenti si sono preoccupati di farsi liquidare la loro quota di quel poco che restava del tesoro, dopo che erano stati pagati i riti. È stato deciso di ripartire equamente fra i vari rami del clan terre e denaro. Gli altri hanno venduto le loro proprietà e si sono trasferiti nelle città costiere dove sperano di far fortuna. Persino l'orfano, 20 agosto, è partito. Gli avevo proposto di mandarlo a scuola con i miei figli a Xuchao, oppure di raccomandarlo come scrivano ad amici. Lui ha cortesemente rifiutato. Poi un mattino se n'è semplicemente andato, portando con sé soltanto una manciata di buste rosse, doni in denaro da parte delle vedove. Ha detto di non avere piani, ma certo non aveva l'aria di essere preoccupato. Mia moglie si è assunta la responsabilità di amministrare la campagna rimasta nelle mie mani. Svolge il suo compito meglio di quanto abbia mai fatto io. Forse ha un talento innato per gli affari, anche se non ha ancora imparato a leggere. Ha elaborato un proprio metodo per tenere conto di tutte le transazioni. In buchi praticati sul piano di un grande tavolo, inserisce cunei di forma diversa e fili colorati che rappresentano gli affittuari e i loro obblighi, le spese e le entrate. Ma i contadini che lavorano la terra non sono per lei semplici cunei. Sa tutto di loro, la composizione delle loro famiglie, le loro abitudini, i loro problemi. A differenza di molti nostri amici che mandano i fattori a riscuotere gli affitti e le tasse, tua zia fa regolarmente visita a coloro che ancora lavorano per la famiglia, risolvendo i problemi con quel tocco personale che ci conquista la fedeltà di tutti. La sua pazienza è infinita e tuttavia non ha paura di dare risposte negative. Istintivamente capisce che favori elargiti troppo spesso e troppo generosamente alla fine si ritorcerebbero su tutti. Se non fosse imbarazzante per entrambi, direi a mia moglie come abile nel gestire ogni cosa, ma gli obblighi fra i membri di una famiglia sono più importanti di quelli che possono essere espressi e assolti semplicemente con parole di elogio. Quanto a me, faccio il mio dovere per la Repubblica, ma preferisco la solitudine alla compagnia della nuova razza di politici. Sun non avrebbe mai dovuto dare le dimissioni a favore di Yuan Chi-kai. Avrebbe dovuto capire che il settentrionale sarebbe venuto meno alla sua parola, spostando la capitale da Nanchino a Pechino, dove stanno i suoi soldati. Talvolta mi domando se sia possibile far funzionare una repubblica quando non si possono recidere i vecchi legami e le nuove leggi non vengono capite o rispettate. Io temo che quando un antico sistema di vita viene cambiato, per quanto lungo sia il processo e fervidamente auspicato, il caos è inevitabile. Nella nostra dimora i mattoni ora sigillano i cancelli che un tempo collegavano i cortili della famiglia, offrendone la bellezza. Quanti anni dovranno passare prima che il colore dei nuovi mattoni si fonda con l'antico, prima che quelle note aspre si stemperino? Quanto tempo ci vorrà per riportare la solidarietà? Un felice anno nuovo a tutti, tuo zio. Primo giorno della prima luna, anno del bue 1913. Caro zio anziano, non ho nessuna notizia particolare da riferire, se non che già da lucente non mi ha raggiunta Pechino. Io le ho scritto che mi sentivo sola e desideravo averla al mio fianco, ma lei si trova bene nella scuola delle missioni e mi ha chiesto di restare. Come potevo insistere perché rinunciasse a quegli stessi fini che le ho posto proprio io? Viviamo semplicemente. Mia suocera non si è mai del tutto ripresa dallo shock dell'incendio. Se soltanto potesse pensare meno al passato e a tutto quel che aveva un tempo, starebbe meglio, ma questa, lo so, non è un'impresa facile. Per alcuni mesi dopo il mio ritorno ho insegnato cinese alla moglie di un missionario straniero nell'entroterra. Il suo primo maestro si era ammalato e, benché dovesse presto tornare a casa in congedo, non voleva interrompere le lezioni per più tempo del necessario. Ora che lei se n'è andata, io rimpiango quel lavoro, mentre mia suocera rimpiange le entrate extra. Spero di trovare presto un altro impiego. Nel frattempo passo le ore leggendo e cercando di ricordare il mio inglese. Un felice anno nuovo a tutti, tua nipote. Primo giorno della prima luna, anno della Tigre 1914. Cara nipote, ti scrivo da Xuchao perché sono a casa per le vacanze, ma ora vivo a Shanghai, là dove un tempo abitavano gli Yang. Inaspettatamente, l'estate scorsa, alcuni amici della Società per il Rafforzamento Nazionale hanno deciso di finanziare una nuova impresa, le pubblicazioni della Nuova Cina. Hanno posto due condizioni: la prima che mi assuma la responsabilità di editore, e la seconda che gli uffici e la tipografia siano situati nel quartiere internazionale per avere maggior libertà e sicurezza. Presto cominceremo a pubblicare libri per lo studente d'oggi di ogni livello, traduzioni di classici e opere contemporanee, occidentali di rilievo e una rivista settimanale dedicata alle riforme. Questa opportunità non poteva giungere in un momento migliore. Stavo languendo a casa e quando la seconda rivoluzione e gli sforzi di Sun per consolidare il Kuomintang in opposizione a Yuan sono falliti, ho persuaso Talento Nobile a raggiungermi. Talento Nobile, mio fratello, il tuo zio giovane, ricordi? Ora egli vive con me nella Babbling Well Road, ingoiando bocconi amari, mentre le democrazie straniere continuano ad appoggiare Yuan con balordi pretesti e finanziamenti che in realtà sono vincoli sulla sovranità della Cina. Ho cercato di presentare mio fratello a diverse famiglie con figlie in età da marito. Lui dice che è troppo vecchio, che è troppo tardi. Io temo che opponga resistenza per la stessa ragione di sempre, che non ha ancora rinunciato a una vita di pericoli. Tua figlia ti avrà senz'altro riferito delle mie visite periodiche alla sua scuola. È una studentessa modello che si distingue nei dibattiti ed è bravissima a badminton. Il mio figlio maggiore ha finito la scuola superiore quest'anno e gli ho proposto di proseguire gli studi a Shanghai. Non avevo capito che già sognava di andare in una università straniera, poiché anche troppo presto dovrà lasciare sua madre. Per il momento resta a Xuchao, avremo mai un'occasione per conoscerci. Ho pensato che il secondo venisse a Shanghai al posto suo per alcuni anni, prima di andare anche lui in America, come immagino farà. Ma quando ho affrontato l'argomento con sua madre, lei mi ha guardato come se crollasse il cielo, pur mormorando come desidera mio marito. Inutile dire che non ritornerò più sull'argomento. Un felice anno nuovo a tutti, tuo zio. Primo giorno della prima luna, anno della Tigre 1914. Caro zio anziano, dopo aver insegnato per un anno a gruppi di signore straniere l'arte di comunicare con i loro domestici, insegnerò finalmente in una scuola. Devo a mia figlia il mio nuovo impiego. Ha sentito gli insegnanti parlare di posti vacanti nella scuola secondaria di Pechino e ha subito presentato la mia candidatura. Una volta tanto sono contenta che abbia le orecchie così lunghe. Ciccia scommette che ho già venduto l'anima a Gesù. La mia sfortunata figlia senza padre cresce fra donne straniere in un luogo straniero. Un altro anno è trascorso e non l'ho vista da quando l'ho lasciata a scuola. Le sue lettere traboccano di ammirazione per le missionarie che hanno viaggiato mezzo mondo per dedicare la loro vita alla Cina e che restano qui nonostante sia rischioso sia per la loro sicurezza sia per la loro salute. Due di esse hanno percorso su un carro migliaia di lì per raggiungere Shanghai dopo che i loro genitori erano stati uccisi dai boxer. Giada Lucenti ha chiesto loro a bruciapelo perché siano rimaste in Cina nonostante tutto quello che era successo. Hanno risposto che è la volontà di Dio. E ora Giada Lucenti ripete spesso questa frase e talvolta temo che vorrà diventare missionaria anche lei. La sua insegnante preferita, una certa Miss Clayton, lavora anche alla Porta della Speranza, una casa per ragazze che hanno subito maltrattamenti, amministrata dagli stranieri delle concessioni. Giada Lucente si è offerta di insegnarvi la sera. Sono orgogliosa di lei, ma anche preoccupata. Non scrive quasi mai delle sue compagne di classe. Non mi sorprenderei se le giudicasse tutte frivole. Pensa come un tempo mia madre si inquietava perché imparavo a leggere e a scrivere. Ora gli dèi certamente ridono. Un felice anno nuovo a tutti, tua nipote.